Il vino lo compro da 25 anni in Monferrato, dalla medesima ditta che un paio di volte l'anno me ne manda quella modica quantità sufficiente ad allietare i pranzi. È un Barbera discreto, costa relativamente poco, me lo mandano a casa con tempestività. L'unico difetto dell'intera faccenda è che me lo portano invariabilmente fra le 5 e le 6 del mattino. Quando in arrivo dunque è un po' come un incubo. Devo andare a dormire, sì, ma tenendo almeno un orecchio sempre ben aperto, no? Una quindicina di giorni or sono mi ha telefonato una ditta concorrente. Avevano un'offerta eccezionale da farmi, mi facevano uno sconto particolare, potevo assaggiare e rimandare anche al mittente in caso di giudizio negativo, e potevano vantare una gamma di qualità di vini piuttosto ampia. Gli ho chiesto di che vini si trattava e andato appunto sono saltate fuori 3 bottiglie di Chardonnay, 3 di Verdicchio e 3 di Cortese, le ricordo esattamente, insomma 9 bottiglie di vini bianchi. Allora gli ho detto: guardi, no, l'offerta non mi interessa, di vini bianchi me ne piacciono pochini e spesso finisce che a casa mia vadano a male prima di aver trovato l'occasione giusta per berli. Al che dall'altra parte, prontamente, mi è stato ribattuto che niente paura, quei bianchi mi sarebbero stati sostituiti con altrettante bottiglie di rossi di mio gradimento, allo stesso prezzo. Ho riaperto la trattativa e l'ho conclusa, insomma, l'ordinazione ho finito per farla. L'altro ieri sono arrivati i 3 scatoloni. Li ho aperti e prima fra tutte ne è uscita una bottiglia di Verdicchio, seguita dalle 2 sue compagne, poi da quelle 3 di Chardonnay e da quelle di Cortese. Insomma, non ci ho messo molto a capire che mi avevano fregato, o almeno avevano tentato di farlo. Ho preso il telefono, gliene ho dette 4 e dal momento che non avevo ancora pagato si sono impegnati a riprendersi la loro merce ed a sostituirla secondo i miei desideri. Nella trottola di Prometeo, un libro uscito dalla Terza quest'anno, Ruggero Pierantoni spiega con brillante chiarezza quel poco che si sa su come facciamo a percepire con la vista e con l'udito. È un libro ricco ed impostato con modalità didattiche esemplari. Laddove Pierantoni si sofferma sulla teoria della soglia del segnale percepibile e laddove ne mostra l'interazione con il linguaggio, racconta i termini di un interessante esperimento. Ad un soggetto posto in una camera buia viene detto: ora sentirai un beep intervallato all'altro per 100 volte. Quando al beep segue un lampo, tu segnala la cosa premendo questo pulsante. Se il lampo non c'è, premi quest'altro pulsante, ok? Bene. Il risultato dell'esperimento mostra che in 22 casi su 100 il lampo impartito non viene veduto affatto. Ma l'esperimento, attenzione, si ripete un altro paio di volte. Altri 100 beep, 100 beep cui tuttavia non segue alcun lampo, ma ugualmente il soggetto 9 volte dice di averlo visto. Se poi gli si dice che l'esperimento è molto importante e che occorre che lui stia un po' più attento, ecco che agli ultimi 100 beep, cui lo sperimentatore non fa seguire alcun lampo, il soggetto, tanto coinvolto nell'attesa, crede di veder seguire la bellezza di 26 lampi. Il cervello e la mente, evidentemente, la fanno da padroni nei confronti delle cellule a bastoncello della retina. Una cabina di regia da cui controllare tutto e tutti noi non c'è. Qualcosa ci sfugge e a volte manchiamo per difetto e a volte per eccesso. Dietro al regista ufficiale della nostra razionalità lavorano stuoli di registi occulti che se la cavano alla belle meglio. Ieri notte era la notte successiva al giorno in cui mi era arrivato il vino, in gran parte indesiderato. Nel pomeriggio mi ero accordato per la sostituzione. Ero stanco morto, venivo da 5 giorni infernali, stando male, dormendo pochissimo. Sono andato a letto presto, dunque, e mi sono anche addormentato beatamente. Stavo sognando di casa mia. C'era movimento, mobili spostati, forse un trasloco, forse qualche ristrutturazione dell'ambiente interno, C'era Papere che mi guardava mentre due signori sconosciuti spostavano con circospezione il tavolo con la lastra di vetro. Stavo dicendo: «Mi raccomando, state attenti», quando qualcuno suona il citofono. Dico: «Vado subito, vado io». E penso: «Chi può essere a quest'ora?». E improvvisamente ho l'illuminazione. E se il suono del citofono non appartenesse al sogno? Se stessero davvero suonando giù da basso? Mi sveglio e ovviamente mi chiedo se il suono l'ho sentito o se me lo son prodotto integralmente io come elemento narrativo onirico fra gli altri. Nel dubbio mi alzo, vado in cucina, sollevo la cornetta e chiedo chi è. Mi giunge il rumore indistinto di una strada senza voci, di certo non c'è nessuno. Torno a letto continuando ad analizzare il ricordo di quel suono che certamente qualche spettatore di mia pertinenza ha udito. Accendo un attimo la luce. 5:30. Ho capito. Adesso ho capito. È la sua ora. L'ora del vinaio tradito che suona alla porta del mio subconscio in colpa. Puntuale come la Nemesi è arrivato la sua ora dal Monferrato per riprendere il proprio dominio oltraggiato. Quel vino, d'altronde, andava sostituito. E chi se non lui era regolarmente autorizzato a farlo? È vero che il mondo ci se lo costruisce, ma è anche vero che non sempre o quasi mai ce lo costruiamo come vorremmo. Come è noto, bisogna fare i conti anche con l'oste.